140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. È uno degli autori più amati dai cantanti italiani, ma ora esce con un suo bellissimo album, Un invito a te. Diego Mancino. Devo dire che una delle cose che mi piace di più è che molti miei amici artisti, musicisti, scrittori mi chiamano e sono contenti come se fosse roba loro. A me questa cosa qua mi piace, perché vuol dire che in questi anni comunque ho seminato dei bei fiori che sono rimasti, che hanno ancora un buon profumo, che la gente vuole ancora ascoltare. Non ho la visione di quello che potrà essere dopo un anno di lavoro questo album. Prima una ragazza mi chiedeva se sto cercando la fama piuttosto che essere famoso, no? E io ho detto no, non è quello che cerco. In effetti, pensandoci bene, sono molto contento e molto eccitato se questo disco viene conosciuto, viene apprezzato. Però a me piace essere anche un po' dietro, cioè un passo dietro dalla musica. A me mi piace moltissimo, mi sembra di guidare una macchina e di non essere la macchina guidata, capito? Paradossalmente sono le persone che ti stanno più vicine e che ti vogliono bene, tra le quali metto anch'io, che hanno sempre sperato nel tuo successo più di te, che invece hai sempre investito solo sulla musica. Sì, ma anche perché, voglio essere onesto, ho visto tante persone che hanno avuto molto successo essere molto infelici, cioè avere poi una serie di complicazioni nella gestione della propria vita, ok? Io in realtà ho capito che a me piace fare la musica, mi piace la musica proprio tanto, però mi piace la mia vita di uomo, cioè io coltivo molto la mia casa, la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici. Per me quella roba lì è più importante, forse, perché comunque quella è la verità, la realtà è quella. La musica è una super realtà, ok? E non mi voglio far confondere. E siccome sono una persona molto emotiva, probabilmente rimarrei confuso in un attimo. E ovviamente, ormai non più, perché però se mi fosse capitato di essere molto famoso a 25 anni, probabilmente non avrei avuto una vita ricca, avrei semplicemente fatto lo scemo, perché comunque ho imparato a essere serio negli anni e sono molto grato al destino di avermi permesso di essere ancora oggi a lavorare proprio con il concetto di lavoro nella musica, in tutti i settori della musica. È una grande fortuna che pochissimi hanno. Lei non vuole cambiare il mondo, vuole solo lei, una vita fa. Degli spiriti che animano questo disco è quello dell'empatia, cioè vuoi colpire le persone direttamente al cuore, direttamente nelle loro emozioni, e questa è la ricchezza del pop. Sì, ma infatti forse te l'avevo detto anche nell'altra intervista, io non ho proprio nessun problema nel dire che sono sentimentalmente cresciuto grazie alle canzoni pop, da tutti i punti di vista, nell'amore, nella rabbia, nei sogni, nelle delusioni, cioè tutto quello che è stata il mio sviluppo proprio sentimentale ha avuto come maestri le canzoni pop. E in qualche modo penso che quello sia anche il mio dovere, cioè nel senso provare a far rimbalzare, a fare vivere comunque anche nel cuore o nell'animo di altri, quel tipo di forza che hanno le canzoni pop, che ti obbligano ad avere, a pensare, no? Ti obbligano a pensare ai tuoi sentimenti e quali sono veramente i motivi per cui provi rabbia o amore per una persona. Ecco, quello vuol dire che fai un disco utile. Per me i dischi devono essere utili. O ci devi ballare, o ci devi fare l'amore, o devono comunque accompagnarti da un punto di vista emotivo, altrimenti che senso avrebbe fare un disco? In volo, dimmi qualcosa che rimanga, se tutto già scompare, per te l'amore è scienza, per me è l'opposto totale. Ma se vieni a cercarmi l'anima, come il vento fra i boschi, con invisibili artigli, è un invito a te. Come i lupi nei boschi, siamo bellissimi mostri, non nasconderti dagli altri. Dimmi qualcosa di concreto. Adesso? Adesso inizia un percorso molto molto bello e molto faticoso, che è quello di andare di città in città nel dire: guarda che esistiamo, c'è questo disco, potrebbe piacerti. Io sono uno di quelli che pensa che tutto è prodromo di qualcos'altro. La musica, fare un disco, serve a me per andare in giro e incontrare qualcuna, il mio prossimo incontro, che mi dirà delle cose che mi muoveranno interesse. Sono più curioso io di chi incontrerò. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Diego Mancino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.